Thornton si precipitò nella sua fabbrica e, ordinando severamente ai suoi impiegati di non far entrare nessuno a disturbarlo, andò nel suo ufficio e serrò la porta. Dopodiché si torturò nel ripensare a tutto quanto, vagliando ogni dettaglio. Come aveva potuto farsi ingannare dall'insospettabile calma nella quale si era rispecchiata la lacrimosa immagine di Margaret meno di 2 ore prima, al punto da essersi impietosito e intenerito per lei come un debole e da dimenticare la gelosia selvaggia e sospettosa che la vista di lei e di quello sconosciuto a quell'ora in un posto simile gli aveva suscitato? Come poteva una persona così pura essersi scostata tanto dalla sua condotta così decorosa e nobile? Ma decorosa lo era davvero? Si detestò per quell'idea che si impossessò di lui per un istante soltanto, non di più. Eppure, per tutta la durata di quell'istante, la forte attrazione che la sua immagine aveva esercitato su di lui tornò a farlo fremere. E poi questa menzogna doveva essere proprio terribile, la paura che la vergogna venisse rivelata, perché dopo tutto la provocazione fatta da un uomo come Leonards mentre era su di giri per l'alcol poteva essere in tutta probabilità più che sufficiente a giustificare qualsiasi persona si fosse offerta di mettere in chiaro le cose apertamente e senza riserve. Quanto doveva essere terribile e fatale quella paura che aveva piegato l'onesta Margaret alla falsità. Riusciva quasi a compatirla. Come sarebbe finita quella faccenda? Poteva non aver valutato bene ciò a cui sarebbe andata incontro. Poteva esserci un'inchiesta e il giovane poteva farsi avanti. Ebbe un improvviso sussulto. Non doveva esserci nessuna inchiesta. Avrebbe salvato Margaret. Si sarebbe personalmente preso la responsabilità di evitare l'inchiesta, l'esito della quale, in base all'incertezza del referto medico, di cui aveva vagamente sentito parlare la notte precedente dal medico di turno, non poteva che essere ambiguo. I dottori avevano scoperto una malattia interna in stadio avanzato che sicuramente sarebbe stata mortale, avevano dichiarato che la morte poteva essere stata solo accelerata dalla caduta o dal fatto che aveva bevuto e preso freddo. Se solo avesse saputo che Margaret sarebbe stata coinvolta nella faccenda, se soltanto avesse previsto che la sua purezza si sarebbe macchiata per una menzogna, avrebbe potuto salvarla con una parola. Infatti, la questione di aprire o non aprire un'inchiesta era rimasta in sospeso soltanto la notte prima. La signorina Hale poteva amare un altro uomo, essere indifferente e disprezzarlo, ma lui le avrebbe reso un fedele atto di servigio del quale lei non avrebbe mai dovuto sapere. Poteva disprezzarla, ma la donna che un tempo aveva amato doveva essere protetta dalla vergogna e sarebbe stato proprio vergognoso mentire davanti a un giudice o trovarsi altrimenti ad ammettere la ragione per la quale aveva preferito la menzogna alla verità. Appariva serio e scuro in volto il signor Thornton quando uscì e passò in mezzo ai suoi impiegati che lo guardavano stupiti. Si assentò per una mezz'ora. Al ritorno la severità del suo aspetto non era diminuita, sebbene la commissione fosse andata a buon fine. Scrisse 2 righe su un foglietto, lo infilò in una busta e la sigillò. La diede a uno dei suoi impiegati dicendo: «Ho dato ordini a Watson, quello che faceva l'imballatore in magazzino e che è entrato in polizia, di passare da me alle 4. Ho appena incontrato un signore di Liverpool che desidera vedermi prima di lasciare la città. Occupati di consegnare questa busta a Watson quando passa». Il biglietto conteneva le seguenti parole: «Non ci sarà nessuna inchiesta, referti medici non sufficienti per giustificarla. Non procedete, non ho visto il pubblico ufficiale, ma mi prendo io la responsabilità». «Bene», pensò Watson, «questo mi solleva da un lavoro difficile. Tutti i miei testimoni sembravano sicuri soltanto della giovane donna. Lei è stata assolutamente chiara e decisa. Il facchino della stazione aveva visto una zuffa, ovvero, quando ha scoperto che probabilmente sarebbe stato chiamato a testimoniare, allora forse poteva non essere stata una zuffa, ma soltanto una lite giocosa e Leonards magari poteva essere saltato giù dalla banchina da solo. E Jennings, il commesso del droghiere? Beh, non era poi così inaffidabile. Ma ho i miei dubbi che avrebbe testimoniato sotto giuramento dopo aver saputo che la signorina Hale negava categoricamente. Sarebbe stato un lavoro difficile senza soddisfazioni. E adesso dovrò andargli a dire che non saranno chiamati». Pertanto si presentò di nuovo a casa del signor Hale quella sera. Suo padre e Dixon avrebbero voluto convincere Margaret ad andare a letto, ma nessuno dei due conosceva il motivo dei suoi ripetuti rifiuti appena sussurrati. Dixon era venuta a conoscenza di una parte di verità, ma era soltanto una parte. Margaret non avrebbe raccontato a nessuna persona al mondo quello che aveva detto e non svelò la caduta fatale di Leonard dalla banchina. Così la curiosità di Dixon si unì alla sua lealtà di domestica nel sollecitare Margaret ad andare a dormire, perché il suo aspetto, mentre era distesa sul divano, beh, mostrava chiaramente che ne aveva bisogno. Non parlava se non quando le facevano qualche domanda, cercava di sorridere in risposta agli sguardi preoccupati del padre e alle sue tenere parole inquisitorie. Tuttavia, invece che in un sorriso, le labbra smorte si aprivano in un sospiro. Era così afflitto che Margaret alla fine accettò di andare in camera sua e si preparò per andare a letto. In realtà era propensa ad abbandonare l'idea che l'ispettore sarebbe passato di nuovo quella sera, dato che erano già le 9 passate. Era in piedi vicino al padre e si reggeva allo schienale della sua poltrona. Andrai a dormire presto, papà, vero? Non restare alzato da solo. Qualsiasi fu la sua risposta, lei non la sentì. Le parole si confusero con un brevissimo suono che per la paura si amplificò e le riempì la testa. Era il debole suono del campanello. Diede un bacio al padre e scivolò al piano di sotto con una rapidità nei movimenti di cui nessuno che l'avesse vista un minuto prima l'avrebbe creduta capace. Disse a Dixon di farsi da parte. Non andare, non andare, apro io la porta. So che è lui. Posso, devo occuparmene io. Come preferite, signorina, disse Dixon stizzita, però un attimo dopo aggiunse: ma non siete in grado, siete più morta che viva. Davvero? Disse Margaret, voltandosi e mostrando gli occhi accesi di un insolito ardore, le guance rosse, mentre le sue labbra erano ancora secche e immobili. Aprì la porta all'ispettore e lo precedette dentro il suo studio, posò la candela a candela sulla tavola e la spense accuratamente prima di voltarsi e affrontarlo. Siete venuto tardi, disse. Ebbene? Trattenne il respiro in attesa della risposta. Mi dispiace avervi disturbato inutilmente, signorina. Infatti, alla fine hanno abbandonato l'idea di svolgere un'inchiesta. Ho avuto altro lavoro da sbrigare e altre persone da vedere, altrimenti sarei venuto prima. Quindi è tutto finito? Disse Margaret. Non ci saranno altri interrogatori? Credo di avere con me il biglietto del signor Thornton, disse l'ispettore armeggiando nel suo taccuino degli appunti. Del signor Thornton? Esclamò Margaret. Sì, è un magistrato. Ah, eccolo qui. Lei non vedeva bene, non riusciva a leggerlo. No, anche se si era avvicinata alla candela. Le parole ondeggiavano davanti ai suoi occhi. Tuttavia lo tenne in mano, osservandolo come per studiarlo con attenzione. Sono certo, signorina, di essermi liberato da un gran bel pensiero, perché, vedete, non ci sono state testimonianze così certe sul fatto che, dopo tutto, l'uomo sia stato colpito da qualcuno, e se di mezzo c'è qualche problema di identità, le cose si complicano, come ho detto al signor Thornton. Il signor Thornton, disse Margaret di nuovo. L'ho incontrato stamattina, proprio mentre stava uscendo da questa casa, e siccome è un vecchio amico, oltre ad essere il magistrato che ha visto Leonards la notte scorsa, mi sono permesso di parlargli del problema. Margaret sospirò profondamente. Non voleva sentire altro. Era dispiaciuta sia per quello che aveva sentito che per quello che avrebbe potuto sentire. Desiderava che l'uomo se ne andasse, si sforzò di parlare. Vi ringrazio per essere venuto. È molto tardi, suppongo che siano le 10 passate. Oh, tenete il bigliettino, continuò, credendo sul momento che avesse teso la mano per prenderlo. Stava per alzarla quando lei disse: Trovo illeggibile la calligrafia, mi confonde, non riesco a leggerlo. Potete leggermelo voi? Glielo lesse. Grazie. Avete detto al signor Thornton che non ero lì? Certo, signorina. Mi dispiace di aver agito in base a delle informazioni che si sono rivelate così erronee. All'inizio quel ragazzo era così sicuro e adesso sostiene di aver avuto dei dubbi per tutto il tempo e spera che il suo errore non vi abbia infastidito a tal punto da far perdere un cliente alla loro bottega. Buonanotte, signorina. Buonanotte. Con la campanella chiamò Dixon affinché lo accompagnasse alla porta. Mentre Dixon tornava indietro lungo il corridoio, Margaret le passò davanti come un fulmine. È tutto a posto, disse senza guardare Dixon. E prima che la donna potesse seguirla con ulteriori domande, era già corsa di sopra ed era entrata in camera sua, chiudendo bene la porta. Si buttò sul letto, vestita così com'era. Era troppo stanca per pensare. Passò mezz'ora, forse di più, prima che la posizione scomoda e il freddo, sommandosi all'enorme stanchezza, avessero il potere di destarla dal suo intontimento. Dopodiché incominciò a ricordare, a mettere insieme le cose e a farsi domande. La prima cosa a cui pensò fu che tutto questo tremendo spavento per Frederick fosse passato, che la tensione fosse finita. Quella successiva fu il desiderio di ricordare ogni parola di ciò che l'ispettore le aveva detto sul signor Thornton. Quando lo aveva visto, che cosa aveva detto, che cosa aveva fatto, che cosa c'era scritto esattamente nel suo biglietto. E prima che riuscisse a rammentare ogni singola espressione da lui utilizzata nel messaggio, persino se avesse messo o meno un articolo, la sua mente si rifiutò di procedere. Tuttavia approdò a una convinzione piuttosto chiara. Il signor Thornton l'aveva vista vicino alla stazione di Outwood la sera di quel fatale martedì e gli era stato riferito che lei aveva negato di esservi stata. Ai suoi occhi era una bugiarda! Tuttavia non aveva alcun pensiero di pentimento davanti a Dio. Il caos e l'oscurità, nient'altro, circondavano l'unico grave fatto che agli occhi del signor Thornton la sua reputazione era rovinata. Non si preoccupava di pensare a quante scuse nemmeno per se stessa avrebbe potuto far valere. Questo non aveva nulla a che fare con il signor Thornton. Mai si sarebbe immaginata che lui o altri potessero trovare sospettosa una cosa così naturale come accompagnare suo fratello in stazione. Tuttavia, ciò che sapeva lui era davvero ipocrita e immorale e aveva un certo diritto di giudicarla. Oh, Frederick! Frederick! Gridò. Che cosa non ho sacrificato per te? Anche dopo essersi addormentata, i suoi pensieri furono costretti a seguire lo stesso circolo, solo che nel sonno gli eventi dolorosi erano ingigantiti e mostruosi. Quando si svegliò, una nuova idea le balenò in mente con tutta la luce del mattino. Il signor Thornton aveva saputo della sua menzogna prima di andare dal pubblico ufficiale. Questo le faceva pensare che potesse essere stato indotto ad agire in tal modo con l'intento di evitarle la ripetizione del suo diniego. Tuttavia, mise da parte quest'idea con l'inguaribile cocciutaggine di un bambino. Se così era stato, lei non doveva provare alcuna gratitudine per lui, perché ciò le mostrava solo che l'aveva condannata prima del tempo e che non si era dato la pena di concederle ulteriori prove di sincerità, a suo parere già del tutto perse. Avrebbe affrontato tutto, avrebbe giurato il falso pur di salvare Frederick, piuttosto che, anzi, sicuramente, mettere il signor Thornton a conoscenza di cose che lo avrebbero spinto a intromettersi per salvarla. Quale malaugurato destino gli aveva fatto incontrare l'ispettore? Perché era proprio lui il magistrato incaricato di raccogliere la deposizione di Leonards? Quali erano state le parole di Leonards? Cosa era riuscito a decifrare il signor Thornton, che magari, per quanto ne sapeva lei, poteva già essere a conoscenza della vecchia accusa contro Frederick, forse rivelatagli dal loro comune amico, il signor Bell? Se era così, si era battuto per salvare quel figlio che era andato sul letto di morte della madre, sfidando la legge. E pensando a questo, forse avrebbe potuto provare gratitudine. Di certo non l'avrebbe mai provata se fosse stato il disprezzo a spingerlo a intromettersi. Oh, allora qualsiasi persona poteva avere un valido motivo per disprezzarla. E più di tutti proprio il signor Thornton, che fino a quel momento lei aveva guardato dall'alto in basso credendosi di un altro livello. Improvvisamente si ritrovava ai suoi piedi e provava uno strano dolore per quella caduta. Era restia a guardare a quale conclusione l'avrebbero condotta quelle premesse, ad ammettere di fronte a se stessa quanto contassero per lei il rispetto e la buona opinione del signor Thornton. Ogni volta che quest'idea le si presentava alla fine di un lungo viale di pensieri, smetteva di seguire quel sentiero. Non voleva crederci. Era più tardi di quanto immaginava, poiché nell'agitazione della notte prima si era dimenticata di caricare il suo orologio. E il signor Hale aveva dato ordini speciali di non svegliarla alla solita ora. Poco dopo, la porta si aprì con cautela e Dixon si affacciò. Capendo che Margaret era sveglia, si fece avanti con una lettera. Poco Ecco qui qualcosa che vi farà bene, signorina, una lettera del padroncino Frederick. Oh, grazie, Dixon. Com'è tardi? Parlò con voce molto stanca e lasciò che Dixon la posasse davanti a lei sul copriletto, senza tirare fuori la mano per prenderla. Sono sicura che desiderate la colazione, ve la porterò tra un minuto. So che il padrone ha già preparato il vassoio. Margaret non rispose, la lasciò andare. Sentiva che doveva essere da sola per poter aprire quella lettera. Finalmente l'aprì. La prima cosa che lo sguardo colse fu che aveva la data di 2 giorni prima, quindi aveva scritto quando aveva promesso e loro avrebbero potuto fare a meno di preoccuparsi. Tuttavia, avrebbe letto la lettera e avrebbe visto. Era scritta in fretta, ma perfettamente esauriente. Aveva visto Harry Lennox, il quale aveva abbastanza conoscenze del caso da scuotere la testa in un primo momento e dirgli che aveva rischiato grosso tornando in Inghilterra, con una simile accusa che pendeva su di lui, sostenuta da autorità così importanti. Tuttavia, dopo averne parlato un po', il signor Lennox aveva convenuto che poteva esserci qualche probabilità di ottenere l'assoluzione se soltanto fosse riuscito a provare le sue dichiarazioni con testimonianze attendibili. Che in tal caso forse valeva la pena essere processato, altrimenti poteva essere un rischio enorme. Avrebbe esaminato, avrebbe fatto tutto quello che si poteva fare. Mi ha colpito, scriveva Frederick, che questa tua presentazione, cara sorella mia, sia servita, non ti pare? Mi ha fatto un sacco di domande, te l'assicuro. Mi è sembrato un tipo sveglio, intelligente e anche con un buon giro d'affari, a giudicare dalle targhette e dal numero di impiegati intorno a lui. Ma questi potrebbero essere soltanto gli espedienti di un avvocato. Sono appena salito su un battello postale che sta per salpare. Partirò tra 5 minuti. Potrei dover ritornare di nuovo in Inghilterra per questa faccenda, quindi mantieni il riserbo sulla mia visita. Spedirò a mio padre dello sherry invecchiato, difficile da trovare, di quel tipo che non si compra in Inghilterra, come quello che c'è nella bottiglia che ho davanti. Ha bisogno di questo genere di cose. Lo saluto con tanto affetto, che Dio lo benedica. Sono certo. Ah, ecco la mia carrozza. Postscriptum, che fuga è stata quella. Stai attenta a non farti scappare che sono venuto qui neanche con gli show. Margaret girò la busta. Sopra c'era scritto in ritardo. La lettera era stata probabilmente affidata a qualche sbadato cameriere che si era dimenticato di spedirla. Oh. Sottili reti di coincidenze ci separano dalla tentazione. Frederick aveva lasciato l'Inghilterra sano e salvo 20, anzi no, 30 ore prima. E soltanto 17 ore prima lei aveva detto una menzogna per eludere l'inseguimento che allora sarebbe persino stato vano. Quanta poca fede aveva avuto. Dov'era adesso il suo fiero motto «Fais ce que dois advienne que pourra» «Fai quello che deve essere» e avvenga quello che può. Se soltanto avesse osato dire la verità con coraggio su quello che la riguardava, sfidandoli a scoprire quello che si rifiutava di raccontare su un altro, come sarebbe stato leggero il suo cuore adesso, e non si sarebbe sentita mortificata davanti a Dio, come se le fosse venuta meno la fede in lui, e non si sarebbe sentita disonorata e svilita agli occhi del signor Thornton. Un fremito disperato la percosse mentre era assorta in questo pensiero. Eccola qui a considerare insieme la poca stima che lui aveva per lei e il dispiacere che aveva dato a Dio. Come mai il pensiero del signor Thornton la ossessionava? Cosa poteva essere? Perché si preoccupava di quello che pensava lui, malgrado il suo orgoglio, malgrado se stessa? Riteneva di poter sopportare il giudizio dell'Onnipotente poiché lui sapeva tutto? E poteva vedere il suo pentimento e sentire le sue disperate grida di aiuto in futuro, ma il signor Thornton, perché al suo pensiero tremava e si nascondeva la faccia nel cuscino? Quale forte sentimento si era impadronito di lei alla fine? Balzò giù dal letto e pregò a lungo e appassionatamente, la tranquillizzava e le dava conforto fino ad aprirle il cuore. Tuttavia, non appena riesaminava la sua posizione, sentiva che il dolore era ancora lì, ma che lei non era abbastanza buona, non abbastanza pura da restare indifferente alla più bassa opinione di un'altra creatura umana, che tra lei e la consapevolezza di aver fatto un'azione illecita c'era il pensiero di come lui l'avrebbe giudicata con disprezzo. Dopo essersi vestita, portò la lettera a suo padre. L'allusione al loro spavento in stazione era così trascurabile che il signor Hale la scorse senza prestarvi troppa attenzione. In realtà, a parte il semplice fatto che Frederick era salpato, senza essere né scoperto né sospettato, non aveva colto molto altro della lettera in quel momento, tanto era preoccupato per il pallore di Margaret. Sembrava che fosse continuamente sul punto di piangere. Hai fatto davvero troppo, Margaret. Non c'è da meravigliarsi, ma devi lasciare che mi prenda cura di te adesso. La fece distendere sul divano e andò a prendere uno scialle per coprirla. La sua tenerezza le fece dare libero sfogo alle lacrime e pianse amaramente. Povera bambina, povera bambina, disse il padre, guardandola amorevolmente mentre era lì, distesa, con il volto verso il muro, tremando per i singhiozzi. Dopo un po' smise di piangere e iniziò a chiedersi se arrischiarsi a concedersi il sollievo di raccontare al padre tutto ciò che la preoccupava. Ma c'erano più ragioni contro che a favore. L'unica a favore era che si sarebbe tolta un peso, e contro c'era il pensiero che il padre si sarebbe agitato ancora di più se fosse stato necessario per Frederick ritornare in Inghilterra, che avrebbe indugiato sul fatto che suo figlio aveva causato la morte di un uomo, per quanto involontariamente e inconsapevolmente, che questa consapevolezza lo avrebbe rincorso incessantemente per tormentarlo in varie forme di esagerazione e distorsione della semplice verità. E quanto al suo grandissimo errore, la sua mancanza di coraggio e di fede gli avrebbe suscitato un immenso dolore. E allo stesso tempo si sarebbe continuamente preoccupato di trovare delle giustificazioni per lei. In passato Margaret sarebbe andata da lui, sia come uomo di Dio che come padre, per confessargli la sua tentazione e il suo peccato. Tuttavia, negli ultimi tempi non avevano parlato molto di questi argomenti e, dati i dubbi di fede, lei non sapeva come la parte più profonda dell'anima del padre avrebbe risposto all'invocazione della propria. No, avrebbe mantenuto il segreto, portando da sola il suo fardello. Da sola si sarebbe presentata davanti a Dio e avrebbe implorato la sua assoluzione. Da sola avrebbe sopportato la sua disdicevole condizione agli occhi del signor Thornton. Era inesprimibile la commozione che provava per i teneri sforzi del padre di pensare ad argomenti allegri di cui parlare, per distrarla da tutto quello che era successo negli ultimi tempi. Erano mesi che non parlava così tanto come quel giorno. Non le permetteva di mettersi a sedere, offendeva disperatamente Dixon, insistendo per prendersi cura da solo della figlia. Finalmente lei fece un sorriso, un breve, debole sorriso appena accennato, che tuttavia per lui fu un piacere più vero che mai. Sembra strano pensare che ciò in cui riponiamo le maggiori speranze per il futuro si chiami Dolores, disse Margaret. Il tipo di commento si accordava più col padre che con il suo solito modo di essere, ma quel giorno sembrava che si fossero scambiati carattere. Credo che la madre sia spagnola, il che spiega la sua religione. Il padre era un presbiteriano molto rigido quando l'ho conosciuto, comunque è un nome molto dolce e grazioso. È così giovane, più giovane di me di 14 mesi, la stessa età che aveva Edith quando si è fidanzata con il capitano Lennox. Papà, andremo a trovarli in Spagna. Scosse la testa, tuttavia disse: Se lo desideri, Margaret, basta solo che poi torniamo qui. Mi sembrerebbe ingiusto e sgarbato nei confronti di tua madre, che temo abbia sempre provato così tanto disprezzo per Milton, se ce ne andassimo adesso che riposa qui e non può venire con noi. No, cara, andrai tu a trovarli e quando tornerai mi racconterai della mia figlia spagnola. No, papà, non ci andrò senza di te. Chi si prenderà cura di te se non ci sono io? Mi piacerebbe sapere chi si prende cura di chi tra noi due, ma se tu ci andassi, convincerei il signor Thornton a raddoppiare le sue lezioni. Lavoreremmo sui classici in modo eccellente. Questa diventerebbe un'occupazione duratura. Potresti proseguire e andare a trovare Edith a Corfù, se vuoi. Margaret smise di parlare di colpo, poi disse con tono piuttosto grave: Grazie, papà, ma non voglio andare. Speriamo che il signor Lennox se la cavi così bene che sia Frederick a portare Dolores qui a trovarci quando saranno sposati. E quanto a Edith, il reggimento non resterà ancora a lungo a Corfù. Magari potremo vederli tutti e due qui prima che passi un altro anno.